Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. E oggi andremo a incontrare Camillo Cantelli, presidente nazionale dell'ARCI Ragazzi. Questo perché naturalmente sappiamo che Carlo Pagliarini, dopo aver fondato negli anni 50 l'API, dopo aver militato nell'ARCI, nell'80 ha fondato proprio ARCI Ragazzi, e portando in tutte queste sue avventure lo stesso ragionamento di rapporto con i ragazzi. Quindi cosa abbia ereditato ARCI Ragazzi da Pagliarini, cosa abbia significato Pagliarini per questa organizzazione, viene spiegato da Camillo Cantelli, contattato da Morena Moretti. Dopo uno stacco musicale sentiamo l'intervista. Camillo Cantelli, io ho qui davanti a me il libro che come ARCI Ragazzi avete pubblicato l'anno scorso, Carlo Pagliarini, con il titolo Ascoltare, condividere e agire con e per i ragazzi. E avete fatto questa raccolta degli scritti di Carlo dall'81 al 97 e quindi dalla nascita proprio dell'ARCI Ragazzi. E nell'introduzione tu parli di una esigenza che avete a un certo punto sentito proprio l'organizzazione di recuperare questo materiale. Ci racconti un po' com'è andata questa scelta di pubblicare appunto gli scritti di Carlo? L'idea nasce da una passeggiata tra me e con Sandro Romildo di ARCI Ragazzi Amelia, che lui è sicuramente tra i fondatori di ARCI Ragazzi Amelia, ma anche tra i padri fondatori di ARCI Ragazzi. E ci confrontavamo su quello che è l'evoluzione del terzo settore, l'evoluzione quindi del mondo dell'associazionismo e allo stesso tempo l'evoluzione ovviamente nel corso degli anni dell'associazione di ARCI Ragazzi. Nel parlare ci rendemmo conto che forse fosse utile soprattutto per i nuovi soci, i nuovi dirigenti eccetera, quello di ricentrare in qualche maniera l'associazione su quella che era l'input iniziale, le riflessioni iniziali che avevano portato all'esigenza degli anni 80 di creare un'associazione che non fosse semplicemente un'associazione che dava in qualche maniera servizi alla gioventù, ai ragazzi, alle ragazze, ma piuttosto un'associazione che mettesse insieme, crescendo insieme, i ragazzi e le ragazze con gli adulti, con gli educatori, con tutti coloro i quali pensavano che centrare l'infanzia, centrare, mettere al centro l'infanzia, mettere al centro il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza fosse una chiave di lettura interessante per poter costruire quello che oggi definiamo le comunità. Non potevamo certo riportare semplicemente questo pensiero se non avessimo fatto il percorso di andare a riprendere il pensiero stesso e di utilizzare le parole di Carlo con quella forza che Carlo utilizzava nel poter esprimere le sue riflessioni. Quindi è stato fatto questo lavoro appunto di riprendere il tutto. È stato anche un momento interessante perché quel lavoro fatto principalmente da Sandro Romildo è stato quello di ricontattare tanti che in associazione non sono più attivi, che però conservano questa esperienza nel cuore e che hanno dato il via, stati importanti per l'associazione, quindi ricontattare queste persone e fare in modo che queste persone dessero il proprio contributo, non solo un contributo di materiale, di fotografie, di quello che potevano aver conservato, ma un contributo umano. Quindi è molto interessante secondo me andare a leggere oltre i pensieri di Carlo, che sono purtroppo, mi viene da dire, ancora estremamente attuali, andare a leggere anche quelli che sono i percorsi umani, che le relazioni che Carlo ha intrecciato, che sono riportate nel libro da tutte quelle persone che hanno avuto modo, sia nell'ARCI Ragazzi, sia anche fuori dall'esperienza dell'ARCI Ragazzi, di incontrare Carlo e di poter lavorare con lui, di confrontarsi con lui. Questo è stato il momento iniziale e su questa riflessione abbiamo costruito tutto quanto il libro, inteso soprattutto il lavoro di ricerca che è stato fatto e successivamente anche il lavoro di presentazione di questo libro, che mi viene da dire a distanza di un anno è comunque una guida estremamente interessante, non solo per conoscere Carlo ma soprattutto per conoscere ARCI Ragazzi e il mondo dell'associazionismo che riguarda l'infanzia fine anni 70 e inizio anni 80. Thank you. Santelli. Carlo Pagliarini è stato da sempre, da quando era giovanissimo, si è posto il problema del rapporto, dell'educazione, della crescita dei ragazzi. In un certo senso si può dire che abbia anche costruito una pedagogia anche originale che va fuori proprio anche dalla scuola e si occupa in particolare di quello che lui chiama il terzo tempo, questo tempo libero dei ragazzi, e se ne è sempre occupato, direi, fin da giovanissimo con l'associazione A e poi a seguire con l'Arci e con la Fondazione dell'Arci Ragazzi. Oggi che cosa l'Arci Ragazzi lavora nell'educazione dei ragazzi? Guarda, io mi viene, ascoltando la domanda, mi viene da dire una cosa in maniera secca. Arci Ragazzi è l'unica associazione in Italia che prevede da statuto che i dirigenti possono essere minorenni, il che significa che nello statuto nazionale, prima di tutto, ma in moltissimi statuti dei circoli Arci Ragazzi, il potere di voto attivo e passivo parte dai 14-16 anni. Questo secondo me è proprio la centralità dell'idea di Carlo, della pedagogia di Carlo, quella lì di creare contesti dove si può ascoltare l'infanzia. Lui diceva una cosa interessantissima, che appunto diceva che poter lavorare con l'infanzia bisogna ascoltare i maggiori esperti di questo tema, che sono appunto i bambini stessi, e quindi questo significa che dirigere un'associazione che si interessa di infanzia deve essere, non dico può, ma deve essere chiamata l'infanzia stessa a prendersi delle responsabilità, e l'Arci Ragazzi ha questo tipo di approccio, cioè quello lì di creare di dare centralità ai ragazzi e alle ragazze, e quindi in qualche maniera di creare anche quei contesti anche di carattere politico nei quali i ragazzi possono esprimere le proprie idee e possono assumersi le proprie responsabilità. Per questo è un'associazione fatta con i ragazzi, non un'associazione per i ragazzi. È un'associazione orizzontale, quindi proprio orizzontale nel senso che tutti quelli che partecipano, a prescindere dall'età che hanno, hanno comunque diritto di parola e vengono ascoltati. Sì, io ricordo all'inizio degli anni 90 facemmo un bellissimo seminario, incontro a Bari, che si chiamava Prendo la Parola, ed è stato un momento nel quale già a fine anni 80, inizio anni 90, si rifletteva sul fatto di creare appunto delle possibilità per i ragazzi, dare a loro la parola, che vuol dire non semplicemente quella lì ti in mano un microfono eccetera, ma quella lì di ascoltarli realmente, come dire, la parola dei ragazzi e delle ragazze ha un potere che noi dobbiamo ascoltare, che noi dobbiamo non solo ascoltare ma creare le condizioni affinché questa loro parola abbia poi un seguito. Da questo c'è stata tutta l'esperienza poi successivamente di Democrazia in Erba, dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, che si differenziano da tanti altri tentativi fatti sicuramente dignitosissimi da altre realtà, che perché fare un consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze significava dare loro la possibilità non solo di esprimersi su quello che era tutto ciò che interessava la comunità in cui vivevano, ma anche quella di dare loro la possibilità di attuare le loro idee. Questo è per me ancora oggi estremamente rivoluzionario. Mi piacerebbe avere dei punti di riferimento nella mia città a cui rivolgermi gratuitamente e degli spazi in cui poter parlare di me stessa, dei miei problemi, ricevendo un supporto professionale che possa essere diverso da quello di amici e famiglia e che non abbia le spese di uno psicologo che troppo spesso sono insostenibili. Non mi viene in mente qualcosa che manchi ai giovani della mia provincia, ma sicuramente c'è una mancanza da parte dello Stato nella manutenzione scolastica. Nella mia scuola non c'è un soffitto, c'è una rete per tenere su tutto, e spesso gli studenti sono soggetti a delle cadute di calce durante le loro lezioni. Allora, volevo parlare di un problema all'interno della mia provincia. Io abito a Legnano, vicino a Mazzafame, non in zona centrale quindi. Questo problema riguarda principalmente lo sport e il divertimento per i bambini più piccoli, all'interno di tre parchi principalmente. Il primo è via Monte Cassino, nel corso degli anni sta diventando sempre meno utilizzato per via delle attrezzature che sono sempre in condizioni inutilizzabili e anche pericolose molto spesso. Il secondo è in via Salmo Iraghi, c'è un campo da basket che è costantemente inutilizzato perché le persone che abitano la palazzina lì attaccata periodicamente staccano i canestri dai tabelloni. Il terzo è un parco attaccato a un campo da calcio in via dell'Amicizia, all'interno del quale c'è un campo da skate che è diventato nel corso degli anni inutilizzabile. essendo molto distrutto e quindi rendendo anche l'utilizzo pericoloso per i ragazzi skater che vorrebbero utilizzarlo. E quindi, nonostante diverse lettere sono state inviate al comune, non è mai stato preso nessun tipo di precauzione e il parco ancora non è utilizzato. Nella mia città, in generale nella mia provincia, non vedo e non si vedono proprio corsi dove si parla, dove si spiega, dove si insegna street art per quanto riguarda murales, graffiti. Letteralmente, se si fa una ricerca breve su Google, verrà fuori un risultato nell'intera provincia. E a mio avviso è una cosa che secondo me riguarda molti ragazzi, perché è una cosa sinceramente interessante che io stesso vorrei provare, che non ho potuto cercare corsi e non ci sono neanche posti dove si potrebbe provare da autodidatta nel caso si volesse imparare. Quindi a mio avviso si potrebbe provare una soluzione anche proprio semplice, del tipo costruire pezzi di muro, muri nei parchi, proprio una cosa così, dove si potrebbe allenarsi e imparare da autodidatti nel caso chi volesse tipo entrare nel mondo dei graffiti. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Portapia, trova scontato e come ha trovato na, na, na, na, na. Chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca l'azzardo, chi parte benvenuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta plebeo, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del sangue, chi tutte le sere, na na na na na na na na na na na, ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Cina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Cent'anni, che ha seguito una strada, che ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta un versetto, na na na na na na na na na na, ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, chi tira il bersaglio, chi sogna la gloria, chi ha scarsa memoria, chi gioca a Sanremo sotto il freno. Chi giove a fonare, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca l'azzardo, chi parte per te, ha in tasca un miliardo. Chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta per me, chi copia maglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia. Chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere, chi mangia una nota, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi ama la zia, chi la porta via, chi come sommato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per Perù, ha in tasca un miliardo. Camillo Cantelli, Carlo Pagliarini è stato un grande amico anche di Rodari e alla fondazione dell'Arci Ragazzi Rodari ha avuto un ruolo, è stato assolutamente citato da Carlo. a cui riconosceva sicuramente un grande valore. E Rodari è entrato nell'Arci Ragazzi come poesia, utilizzato come strumento di lavoro per i bambini e per i ragazzi dell'associazione. Sì, l'apporto di Rodari c'è dal primo minuto in Arci Ragazzi, perché la filastrocca di Rodari che appunto parla che dopo la pioggia viene il sereno, eccetera, eccetera, è una filastrocca che in qualche maniera è stata donata ad Arci Ragazzi, e Arci Ragazzi dal primo momento, stiamo parlando proprio dal primo manifesto, quello del 1981, della costituente dell'associazione fatta a Napoli, c'è cioè, dopo la pioggia viene il sereno, prima in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbanderato. Il sole di passa festeggiato. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato, e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente. Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa, sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. E in qualche maniera Rodari dal primo minuto dell'associazione, dal minuto zero oserei dire, è uno dei riferimenti dell'associazione, quindi in qualche maniera la capacità di Rodari di stravolgere il mondo, di vederlo in maniera diversa, l'orecchio cerco e giù di lì la fantasia, la creatività che Rodari metteva nei suoi scritti e anche nelle sue azioni diventa un timone per Arci Ragazzi, un timone al quale poi si associerà successivamente quello dei diritti, che se prima erano semplicemente in qualche maniera rivendicati, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia vengono sanciti come legge nel 91, la legge 176, a quel punto diventa il secondo importante timone dell'associazione per poter navigare, diciamo, questa metafora, in queste acque che ancora oggi sono i timoni dell'associazione, certo riletti, rivisti, ma sempre guardando il passato, e quindi questo ritorniamo al libro. E che progetti avete per, diciamo, il prossimo futuro? E in questo momento stiamo lavorando su 7 regioni insieme a UNICEF, questa costruzione delle comunità educanti in ambito del fondo di contrasto alla povertà educativa, e siamo all'interno di questo fondo, e come nella mia persona siamo nel gruppo di ascolto dell'impresa con i bambini proprio dall'inizio, proprio perché siamo tra solo portatori di interesse, ma soprattutto coloro i quali stanno cercando di dare una mano a combattere la povertà educativa. In più mi piace dire due cose che sono proprio in linea con il pensiero di Carlo. La prima è che penso di essere stato come associazione tra le poche che nel proprio congresso per le elezioni della classe dirigente, questo nel 2018, abbiamo preteso e abbiamo avuto delegati minorenni, che non significa semplicemente mettere dei ragazzi a votare, ma piuttosto quello di far fare in alcuni circoli che si sono resi disponibili percorsi a questi ragazzi e a queste ragazze a discutere del documento politico pubblico, tra l'altro esteso non solo in politichese, ma anche in maniera tale che fosse facilmente intellegibile anche da ragazzi sopra i 14 anni. E loro hanno partecipato al congresso, hanno fatto parte di gruppi di lavoro, hanno discusso e alla fine hanno votato alla pari degli adulti. Questo è stato un segnale che abbiamo dato come dirigenza proprio per dimostrare che la nostra associazione in qualche maniera si ripensava e dava lo spazio e ascoltava quelle che erano le indicazioni di una parte dell'associazione che appunto è costituita da minorenni. Che i ragazzi come tesserati più del 50% sono minorenni, che significa che è un'associazione giovanile nel senso che è fatta da minorenni. Allora a questo punto non possiamo non pensare di doverli ascoltare, altrimenti saremmo in qualche maniera incapaci di portare avanti un'associazione in maniera reale, cioè sarebbe un'associazione che abbiamo nella testa noi adulti e non un'associazione che invece si confronta al proprio interno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece stiamo preparando una serie di progetti, ti parlo del livello nazionale in quanto presidenza nazionale, che prevedano un percorso lungo fino al 2022, che è la fine anche del mio mandato, un percorso lungo che possa arrivare a esprimere anche una nuova dirigenza, perché fortunatamente io sono a fine del secondo mandato nel 2022, quindi in qualche maniera posso fare un passo di là, e vorremmo costruire una nuova dirigenza che fosse una dirigenza ancora più giovane, che però è in grado di tenere presente quello che è il punto di partenza, cioè le riflessioni e la pedagogia di Carlo, mediato ovviamente con occhi nuovi e con modalità nuove, cioè quanto si sta trasformando il terzo settore, quanto sta trasformando, quanto si sta portando nella direzione dell'impresa. È una delle domande forti a cui Carlo dà una risposta: l'associazionismo è ancora una risposta? Una riflessione importante. Allora forse l'associazionismo può essere ancora una risposta se al suo interno ascolta tutte le sue componenti. E quindi nel caso nostro ovviamente l'infanzia e l'adolescenza, che è una forte componente della nostra associazione. No. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Ciao amici miei, e voi con me direte ciao, amici miei direte ciao.